edizione. Sono le 6, 13 minuti, 31 secondi, vediamo di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, sia italiani che stranieri. Iniziamo dal Sole 24 Ore che, come spesso sta facendo in questi giorni, dedica un ampio speciale tanto alla manovra quanto ai mercati. Il titolo principale è: l'IVA sale al 21%, prelievo sui super ricchi, sulle pensioni rosa si legge adeguamento dal 2014, evasione, manette facili solo oltre il 30%. Il fatturato, come vi riferivamo nei giornali radio, anche questo, il tema della manovra, è un tema che approfondiremo più avanti. A centro pagina il titolo forte è dedicato in questo caso ai mercati, spread ancora ai massimi, borse in rosso. Si ricorda che ieri Piazza Affari ha comunque chiuso con un calo del 2% e Wall Street è negativa, e il differenziale tra BTP e Bund resta in tensione ma scende a quota 365 punti grazie agli acquisti da parte della Banca Centrale Europea. Di taglio alto un titolo sul progetto South Stream sul gasdotto: nel consorzio Gazprom Eni entrano EDF e Winter Shell. E ancora sul caso Tarantini c'è anche il reato di corruzione. Veniamo al Corriere della Sera: IVA al 21% e prelievo sopra i 300.000 euro, questo il titolo del Corriere. Pensioni delle donne anticipato 2014 l'iter, l'Europa dice bene le misure, cortei della CGIL in 100 città per lo sciopero generale, l'accusa della Camusso al governo. Mettete un punto, è il titolo dell'editoriale di Dario Di Vico. E ancora Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo sugli assegni d'oro, i vitalizi scandalosi e nascosti nelle regioni. La vicenda Penati a centropagina. Penati è il caso Serravalle, la diplomazia segreta per giustificare il prezzo, incontri nel 2010 dopo l'indagine della Corte dei Conti a firma di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. E ancora la nota di Lavitola, il premier disse assisti Tarantini. Infine una notizia che arriva da Milano, sempre al Corriere della Sera: il Comune di Milano annuncia controlli fiscali sui furbi del parcheggio. Il titolo è: caccia a chi ruba i posti dei disabili. Infine la lettera del figlio di Mike Bongiorno: chiedo aiuto per ritrovare il feretro di papà Mike. Andiamo alla Stampa. IVA più cara e tassa sui ricchi, anche qua il titolo naturalmente è quello. Vi segnaliamo il titolo dell'editoriale di Luigi La Spina: il nodo politico da sciogliere, quello di Federico Geremica, gli effetti del voto blindato, si riferisce alla fiducia. Ma anche a centropagina Lele Mora che dice 3 milioni dal premier, si ritorna dunque sul caso Ruby. Ghedini chiede di non portare in aula le intercettazioni, i verbali di Mora, quasi metà di questi soldi, questi 3 milioni, sono finiti a Fede. Ancora il Giro della Padania, partenza corrissa, Rifondazione prova a fermare la corsa. E un commento di Lucia Annunziata sulla notizia della quale vi parlavamo poco fa, i sogni neo-ottomani della Turchia, così li definisce Lucia Annunziata. Per chiudere con l'Italia, anche Repubblica: aumenta l'IVA, torna alla supertassa, questo il titolo principale. E a centropagina titolo forte su Lavitola, che dalla latitanza annuncia un memoriale: il premier mi disse dai i soldi a Tarantini. E ancora anche sulla vicenda Penati: Gavio, coppe industriali, i finanziatori di Penati in cambio di appalti e lavori. Questa Repubblica, che dalla quale vi segnalo un titolo nella parte alta anche sul film di Ermanno Olmi, Cime tempestosi e amori crudeli, commuove Olmi, quindi siamo al Festival di Venezia. E poi ovviamente un titolo anche sull'Italia che accede ad Euro 2012. Diamo un'occhiata a quel che succede sui quotidiani internazionali, iniziando dall'America, dal New York Times, che apre con una raccomandazione, almeno sul suo sito, arrivata dal direttore della CIA, Leon Panetta, secondo il quale andrebbe tenuta una piccola forza, 3.000 uomini, in Iraq anche dopo la data prevista per il ritiro. In primo piano la vicenda libica e anche l'ennesima strage di un folle, questa volta in Nevada, che ha ucciso 4 persone e poi si è tolto la vita. Il Wall Street Journal apre con l'uscita di scena, e questo è un fatto, anche questo è avvenuto questa notte, veste da una grande azienda della tecnologia Yahoo dell'amministratore delegato Carol Bartz. Il tentativo è quello di riportare ad antichi fasti un'azienda in forte difficoltà, ma ampio spazio naturalmente anche alla crisi dell'euro e soprattutto alla mossa della Banca Centrale Svizzera, che ha fatto sapere che interverrà sul mercato per sostenere un livello di cambio tra euro e franco che non scenda sotto l'1,20. I giornali francesi ve lo segnaliamo perché è un elemento che probabilmente porterà ad un certo dibattito, forse anche in Europa. Discutono della proposta di uno dei candidati alle primarie del Partito Socialista, ossia Martine Aubry, la quale propone di abolire la legge molto dura varata dalla Francia contro chi scarica illegalmente musica o altro materiale, e di sostituire il tutto con una tassa da un euro su tutti gli abbonamenti internet che vada a finanziare una sorta di fondo per la creatività. Vi segnalo proprio a proposito di misure di austerity che la Tribune tocca il tema dell'ipotesi di una nuova tassa sulle transazioni immobiliari e dice che rischia di creare un crack. Quelli inglesi sono anch'essi molto concentrati sulla crisi economica, il Guardian sulle stime di crescita che sono state abbassate da parte del cancelliere dello scacchiere Osborne, e infine vi segnaliamo anche qualcosa di interessante che arriva dal Giappone. Adai Shimbun, uno dei principali quotidiani giapponesi, intervista l'ex premier Naoto Kan, che come sapete, come abbiamo raccontato, ha lasciato l'incarico 2 giorni fa. L'intervista verte in gran parte sulla vicenda di Fukushima, a partire dalla notizia che la Francia avrebbe offerto di acquistare il combustibile esausto dalla centrale, ma il Giappone deve ancora rispondere. Ma si parla anche di altro sempre sulla vicenda Fukushima, e Kan racconta che per un momento ha temuto, per un periodo, per qualche giorno ha temuto che addirittura Tokyo diventasse impossibile da abitare, insomma una città nella quale non si poteva vivere più a causa proprio delle scorie radioattive. Adesso chiudiamo con questa breve rassegna stampa e veniamo al primo tema di giornata. Può essere naturalmente che la manovra, il maxi emendamento arrivato dal governo, è stata posta la fiducia. Più avanti toccheremo anche, andremo più nello specifico per quel che riguarda le misure. E intanto io saluto Paolo Madron, direttore del quotidiano online, del quotidiano in realtà, del giornale online Lettera 43. Buongiorno Madron. Buongiorno. E grazie per essersi prestato a quest'ora. Dunque, un primo commento su quel che è successo ieri. In realtà su a che numero siamo di manovra non è ancora chiaro, perché non ha capito nessuno. C'è chi dice che è la quarta, c'è chi dice che è la quinta, chi ci mette gli emendamenti che sono stati via via approvati. Però insomma, diciamo comunque questa potrebbe avere la patente di versione definitiva. Beh, insomma, mi sembra che, come dire, assomigli di più a quello che era stato in qualche modo suggerito da più parti, cioè una manovra sostanzialmente che agisce sull'IVA, e insomma, nonostante Tremonti non volesse, fosse contrario, questo era un provvedimento auspicato, suggerito, una manovra che sostanzialmente tassa i super ricchi, adesso non so quanti siano, perché ieri c'è stato questo giallo, poi prima sembrava 500.000, poi adesso in definitiva 300.000, è una manovra che agisce anche se in prospettiva sulle pensioni, quindi alla fine si era arrivati laddove il buon senso suggeriva. E forse anche IVA parte da là da dove si era partiti. Sì, c'è stato questo balletto con questo, diciamo, questa appendice finale ieri abbastanza surreale, grottesca, per cui il Senato si discuteva un testo di manovra che era entrato nelle stesse ore, veniva completamente stravolto, forse si discuteva nella versione numero 3 o numero 4, quando in realtà già le agenzie battevano quella che sarebbe stata la versione numero 5, però insomma, alla fine si è approdati a un qualche cosa, salvo colpi di scena alla Camera, perché c'è sempre, perché comunque c'è sempre il passaggio alla Camera, certo, naturalmente. Certo. Naturalmente una manovra fatta di nuovo e naturalmente sotto la pressione dei mercati e presumiamo anche sotto la pressione della BCE, perché c'è stata una forte sensazione che lunedì la BCE avesse rallentato gli acquisti dopo anche le parole di Mario Draghi, gli acquisti di titoli di Stato italiani, e quindi avesse costretto il governo ad agire con un po' più di fretta, di rapidità. Assolutamente sì, è una manovra messa in piedi in fretta e sotto appunto la pistola della BCE, che insomma, a cui abbiamo assistito in questi giorni non era piaciuta affatto, e quindi di qui insomma in qualche modo l'invito a fare in fretta, appena mi pare che la decisione la devono prendere giovedì, di continuare o meno ad acquistare i BTP. La tua impressione, direttore, è che il governo regga a questo punto? Perché da questo lato se ne è parlato molto in queste ultime settimane, insomma, appunto, pressione della BCE forte, pressione dei mercati forte, ci voleva una manovra più forte, questa a quanto pare è arrivata almeno al momento, questo consentirà al governo di durare? Probabilmente sì, nel senso che insomma stiamo assistendo, no, da molti mesi oramai ad una sorta di sfruttamento della maggioranza e anche una specie di frazionamento di posizione all'interno dei partiti che la compongono, FDL da una parte e Lega dall'altra. Sulla manovra abbiamo visto all'interno posizioni diversissime. Poi quando si tratta di andare all'appuntamento al voto parlamentare in aula, c'è questa maggioranza che coesa, compatta, vota grazie a, ai responsabili, grazie alla paura di che si sfasci tutto, grazie al fatto che devono stare insieme perché non ci sono alternative. Per cui insomma c'è un po' questa differenza tra quello che probabilmente ormai il paese chiede, cioè i sondaggi dicono che questa maggioranza è in crollo verticale, e dall'altra parte però questi appuntamenti parlamentari dove alla fine il governo riesce ad avere i voti che gli consentono di andare avanti. Io personalmente ho sempre pensato che bisognava adottare una soluzione alla spagnola, cioè andare al voto, però insomma, mi sentirei un po' angosciato a pensare all'idea che si va avanti in questo modo fino al 2013, ecco, io penso che sarebbe anche giusto a questo punto che questo governo facesse un passo indietro e se non si vuole il governo tecnico, il governo così chiamato di servizio nazionale, che si andasse al voto. Forse sarebbe un segno anche per i mercati, no? Ho visto che in Spagna, dopo che Zapatero ha proclamato le elezioni anticipate, la situazione si è un pochino calmata. Grazie a Paolo Madron, questa la sua opinione, direttore del quotidiano Lettera 43, www.lettera43.it. Buona giornata, Madron. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Prima edizione. 6:33 minuti e 40 secondi, è il momento dell'appuntamento con Italia in controluce, torniamo a parlare di tangenti. Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 7 di settembre, vi parla Daniele Biacchessi, Italia in controluce, due edizioni, il programma di Radio 24 sulla cronaca italiana. Una città, una giunta coinvolta in uno scandalo di tangenti, un sindaco che non vuole dimettersi, cittadini arrabbiati che ogni volta che si riunisce il Consiglio Comunale scendono in piazza. Il racconto di Barbara D'Amico. Un sindaco, Pietro Vignali, è il destino della sua città, Parma. Il primo cittadino ha azzerato ancora una volta l'esecutivo, travolto dallo scandalo tangenti nell'inchiesta Green Money. Per la magistratura, il governo, insediato nel 2007, ha svuotato le casse comunali, truccato appalti, gestito tangenti. Si parla di un buco di quasi 700 milioni di euro. L'amministrazione ha subito diversi rimpasti, ma di fatto è bloccata. Eppure Vignali non cede, non vuole dimettersi. No, non vedo ragioni per cui dobbiamo dimetterci, nel senso che c'è stata un'indagine a Parma che ha portato all'arresto di tre dirigenti comunali per dei fatti estremamente personali, e quindi la responsabilità penale è personale. Non vediamo cosa debba centrarci la giunta o il sindaco. La città chiede elezioni e una nuova amministrazione. A sostenerlo anche il presidente del consiglio comunale ed ex sindaco di Parma, Elvio Ubaldi. Un rimpasto non serve a niente, non risolve i problemi, non riesce probabilmente nemmeno a portare a termine il mandato. I cittadini chiedono il commissariamento del comune, a cominciare da Marco Vignozzi, membro del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo il commissariamento, si deve dimettere il sindaco e il comune deve essere commissariato. Il problema fondamentale del comune di Parma sono i conti. Questa giunta ha sempre dimostrato poca trasparenza nei conti. Uno dei nodi fondamentali sono i 70 milioni di euro che devono arrivare dal governo per la mobilità. Se arriva il commissario prefettizio, quei soldi li lascia nel cassetto, mentre loro si tengono ancora il potere della città per poter gestire quei soldi. Da mesi gli indignados di Parma organizzano sit-in e proteste. Ecco la testimonianza di Andrea Zini, membro del PD parmense, e di Daniela Carnevalis, del comitato Il Muro. Fino all'altro giorno questa era anche una giunta dell'immagine, dell'apparire, della comunicazione sempre molto molto tirata e sempre pro domo loro, e quindi non sapeva nemmeno la città. Adesso invece che comincia a rendersi conto, mi sembra che la perplessità, la paura, la preoccupazione faccia coppia con quella per il governo Berlusconi a Roma. Io sono commerciante, per dire, commercialmente la città per me, il nostro quartiere è messo in ginocchio, abbiamo fatto delle mobilitazioni eccetera, e quindi è chiaro che io sono indignata per molte cose, ovviamente. Italia in Controluce, prima edizione, siamo su Facebook, pagina e gruppo, rintracciabili su Twitter o controluceradio24.it. Torniamo oggi con nuovi reportage alle 13.30 su Radio 24. Sei, 37 minuti e 15 secondi, di nuovo una buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. Qualche aggiornamento dalle agenzie, innanzitutto per quel che riguarda il piano da 300 miliardi di dollari per creare nuova occupazione del presidente Barack Obama, verrà annunciato nella notte di giovedì, e quindi venerdì mattina naturalmente ve ne parleremo. Risorse, da quel che si apprende, verranno da ampi tagli fiscali e serviranno a finanziare opere pubbliche, fornire aiuti diretti alle amministrazioni statali e locali, e poi naturalmente c'è il fronte della riduzione del deficit nel lungo periodo. Altra notizia, questa di cronaca invece, che ci arriva dall'estero, una forte esplosione, forse l'azione di un kamikaze, avvenuta oggi a Quetta nel Pakistan nord-occidentale, causando per il momento un bilancio provvisorio di numerosi feriti e forse due morti. L'area colpita, precisa l'emittente, un emittente locale, ospita le residenze di numerosi funzionari pubblici pakistani, ha prodotto una densa colonna di fumo nero che si è elevata nel cielo, e c'è stata poi una seconda esplosione di minore intensità. Noi restiamo all'estero e però veniamo a parlare di Libia. Marco Giaconi, direttore ricerca del Centro Militare di Studi Strategici, è con noi, buongiorno. Buongiorno. Allora, vogliamo parlare di Libia perché, come vi abbiamo aggiornato, come vi abbiamo raccontato nel giornale radio delle 6, ci sono anche tra l'altro delle novità di questa notte. Secondo alcune fonti militari, Gheddafi non solo è ancora nel paese, ma a quanto sembra si sta riorganizzando, nel senso che avrebbe mandato dell'oro fuori dal paese per pagare dei nuovi mercenari, starebbe preparando quella che è la controffensiva. Allora io, Giaconi, con lei vorrei partire proprio da questa controffensiva di Gheddafi, se le sembra una cosa possibile a questo punto, visto che l'uomo, da quel che abbiamo visto in questi giorni, dimostra di avere mille risorse. Certamente, è un'ipotesi altamente possibile. l'oro soprattutto, perché insomma nell'economia del deserto la carta moneta è poco conosciuta. L'oro servirà certamente a fare quello che ha fatto all'inizio della rivoluzione del CNT a Bengasi, e quindi a comprare a caro prezzo, peraltro, perché le tariffe erano piuttosto elevate, a comprare nuovi elementi da lanciare nel fuoco contro le forze del CNT. È molto probabile, e certamente Gheddafi fin dall'inizio ha, come dire, sempre creato situazioni di contrasto, di ambiguità, anche durante i primi lampi della rivolta del CNT a Bengasi, ed è un osso davvero molto duro. Nel frattempo questa avanzata dei ribelli prosegue, e come al solito quello a cui assistiamo dal punto di vista mediatico è un costante stop and go, nel senso che hanno detto siamo a Bani Walid, ci siamo accordati, entreremo senza combattere, entreremo nel corso della giornata, al massimo domani. Sempre nella notte è arrivata la notizia che ci vorranno altre 48 ore. Ora naturalmente però non è Bani Walid la questione strategica. No, non è Bani Walid, è il rapporto con le CNT, con le tribù, è in questo caso i Warfalla, che è la tribù maggiore, la tribù di circa un milione di elementi, ed è il rapporto del CNT con gli interessi delle tribù, cioè con la possibilità che molto intelligentemente Gheddafi aveva mantenuto di far fare alle tribù i loro affari, soprattutto i loro affari commerciali, i loro affari di contrabbando in particolare, che come dire, non sono stati ancora garantiti dal CNT. E poi c'è, e con questo chiudiamo, Giaconi, c'è la questione di Sirte, naturalmente. Beh, Sirte è ancora ancora non espugnata di fatto dai militanti, più che militari, del CNT, ed è chiaramente l'area in cui Gheddafi, essendo nato lì, ha proprio la sua radice tribale. Ecco, questa è una guerra in cui il CNT ha compiuto un'equazione strategica non del tutto esatta, trascurando il potere e la capacità di mobilitazione anche militare delle tribù, e dall'altra parte Gheddafi ha fatto il gravissimo errore di non capire come in effetti proprio gli elementi di modernizzazione certamente autoritaria che lui aveva introdotto li sarebbero poi rovesciati contro con la rivolta di Bengasi. Grazie a Marco Giaconi, direttore ricerca del Centro Militare di Studi Strategici, e buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Come promesso, adesso veniamo alle 6:43 minuti e 12 secondi alla manovra, però dal lato dei contenuti, manovra 4.0, scherza qualcuno. Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora Mauro, cosa c'è dentro, a che livello è questo contributo di solidarietà, che cosa ha in mano il Sole? Allora, noi possiamo, diciamo, al momento affidarci a questo comunicato che è stato dato da Palazzo Chigi ieri in serata. Sappiamo di questo aumento di un punto percentuale dell'IVA, abbiamo qualche simulazione dell'IVA solo nella parte dell'aliquota al 20%, quindi i beni che stanno al 4%, classicamente gli alimentari di prima necessità, e quelli che stanno al 10%, anche qui i prodotti dell'agricoltura per lo più e alcuni servizi dovrebbero rimanere al 4 al 10. Uso il condizionale, Simone, perché questa manovra non so se sia la quarta, la quinta, la settima se contiamo dal decreto sviluppo, però effettivamente ci ha abituato a come dire, essere abbastanza mobile, quindi sì. Finché non abbiamo un testo stabile sì. Preferiamo essere prudenti. Naturalmente. Prima edizione. Eccoci di nuovo alle 6:45 minuti e 16 secondi con ancora col tema della manovra. Vi ricordo che tra l'altro, oltre che sul Sole 24 Ore oggi in edicola, trovate parecchio anche sul sito www.ilsole24ore.com e siamo con Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Dunque, allora, dell'IVA mi sembra che abbiamo detto. Si torna indietro o si va avanti, o si fa un passo avanti a seconda di come la si vede dal lato dell'evasione. Allora sì, sul lato dell'evasione quello che si è annunciato è una riduzione della stretta. Qui adesso io vorrei essere un po' forse inatteso magari rispetto alla percezione della maggioranza. Noi abbiamo sempre detto dobbiamo battere l'evasione e tra l'altro, consentimi, anche sull'IVA c'è un problema di evasione, perché noi possiamo anche aumentarla di 1 ma anche di 10 punti, ma è chiaro che questa imposta, per essere poi efficace, per garantirci le entrate, non dovrebbe essere evasa. Cioè se lo scambio verso il consumatore finale, l'utilizzatore, avviene senza la fattura, poi l'IVA va perduta comunque, quindi c'è un problema di evasione anche lì. Si era parlato di queste manette agli evasori. Qualcuno come me ricorda che una volta avevamo una legge che si chiamava proprio così, manette agli evasori, l'avevamo superata per inefficacia manifesta. Le misure che erano state prospettate sembravano più o meno avere una grande deterrenza teorica, ma come dire, essere poco misurabili, poco efficaci dal lato pratico. Mi sembra che adesso si sia fatta una correzione, non so poi quanto accontenti nessuno, cioè comunque lasciamo il principio, spostiamo le soglie in un modo da renderlo molto più mirato. Però a questo punto devo ricordare, già dal 2000 abbiamo una norma che prevede anche il carcere. Di fatto l'evasione però nel nostro paese raramente colpisce anche con il carcere, di solito si finisce in carcere per altre questioni, ecco. Vedremo che cosa succederà e che efficacia avranno queste norme. Io intanto ringrazio Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Tutti i dettagli sul Sole oggi in edicola e naturalmente sul sito www.ilsole24ore.com. Vi aggiorno sull'attentato di Chetta e di almeno 15 morti e decine di feriti. Il primo bilancio delle vittime, questa è stata battuta adesso dalle agenzie, con Alessandro Milan per le anticipazioni della rassegna stampa in onda alle 7:20. Alessandro, buongiorno. Eccoci, buongiorno a te Simone. Hai altre domande per oggi? No. domande no. Ovviamente, come hai parlato adesso con Mauro Meazza, si parla di manovra, soprattutto la manovra versione, qualcuno dice 5.0. No, le abbiamo contate 5? 4, guarda, 5. Meazza ci diceva che se ci mettiamo dentro anche il decreto sviluppo, insomma, siamo a 6, no? Non lo so. No, voglio, ovviamente c'è molto di intercettazioni anche, perché si dice così, trema la Bari bene in questo momento, nel senso che ci sarebbero delle intercettazioni che, parola di Giampaolo Tarantini, se escono sarà un terremoto, che potrebbero uscire. Ovviamente si sa che in Italia i giornali non si fanno mancare questo se riescono ad acchiapparle queste intercettazioni. E poi la manovra in tutte le salse, anche con i risvolti politici. C'è anche qualcosa di curioso, se vuoi. Abbiamo un minutino, vai. Allora, la Cassazione ha punito un marito mammone. La questione è sempre il rapporto suocera-nuora. È stato punito in una causa di separazione il marito perché non ha difeso la moglie dall'invadenza della suocera, insomma, non è riuscita ad arginare il classico dei matrimoni. Gli è stato tolto il figlio perché immaturo nella separazione, è stata affidata alla madre, ma poi insomma è tutta una vicenda che racconta la stampa di un classico, no? La suocera che ti entra in casa, ti mette le mani nei cassetti, poi ti dice come educare il figlio, come cucinare, come pulire, come insomma. Un gran classico di alcuni matrimoni, Di alcuni matrimoni. Non tutti, per la verità. 10 secondi, Alessandro, un'altra cosa? Allora, vi racconterò anche un nuovo pamphlet di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, gli autori celebri della casta. Il titolo è Licenziare i padri eterni, si concentrano sempre sui privilegi della casta. Sai qual è la casta per eccellenza? Sì. Fammi la domanda, è quella dei politici. Dei politici, naturalmente. Grazie ad Alessandro Milan, che dunque ritroviamo tra poco, subito dopo il giornale radio e il GR Sport. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni in redazione. Una buona giornata da Simone Spezia. Ci risentiamo dopo il Gazzettino del Risorgimento con il giornale radio.